Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati nella nuova puntata Dal mondo della scuola, appuntamento consueto ogni 7 giorni. Mirko Cavallini, studio in regia di Daici. Oggi parliamo di educazione alla legalità, specificamente poi di un progetto che si chiama Patente Etica. Ci facciamo aiutare in questo dal professor Renzo Mulato, filosofo e consulente di questo progetto. Benvenuto. Buongiorno. E dalla professoressa Vittoria Bertolini, che insegna matematica all'Ipsia Galilei di Castelfranco Veneto. Benvenuta. Buongiorno, grazie. Perché lì a Castelfranco e all'Ipsia è stato attivato da alcuni anni questo progetto, che però bisogna presentare, spiegare esattamente cos'è. Patente etica. Le due parole dicono già molto di per sé, ma vorrei che il professor Mulato ci introducesse meglio sulla genesi e sulle finalità. La patente perché certifica delle abilità e delle competenze e delle caratteristiche positive che si sono conseguite man mano, ed etica perché è attinente al valore del progresso fatto dall'allievo o dal gruppo di allievi, non tanto dal voto singolo. Il voto è altra cosa. L'etica attiene anche i comportamenti, le scelte, no? Come si sta in gruppo, se si è puntuali, tant'è che basta vedere gli indicatori, cioè degli elementi che sono all'interno della patente, si vede subito che ci si rivolge al comportamento, al modo d'essere, al modo di stare insieme. Che ecco. Non c'entra col voto di condotta? No, non c'entra col voto di condotta. La pagella e il voto di condotta sono una cosa. La patente etica guarda il miglioramento che un allievo fa nel corso del tempo, per esempio, era a livello 4 oppure disordinato, non grandi competenze, non giustificazione, una serie di non, e invece è diventato più. Questo è quanto. Nel corso degli anni. Nel corso del tempo, certo. Ha fatto approfondimenti, si è aggregato a un gruppo e sta meglio in gruppo. Ecco, questo si valuta, il modo di stare assieme e il modo di progredire. Da chi nasce l'idea di questa patente etica? Ma questa idea della patente etica nasce all'interno dell'istituto, da un gruppo di docenti, qualcuno poi verrà anche trasferito, insomma, dei primi. E questo gruppo di docenti vede alcune questioni che sono critiche all'interno dell'Ipsia, per esempio il disagio, lo avevo scritto anche nella brochure, crescente degli insegnanti e degli allievi, che non amano molto la scuola, che la sopportano a malapena, il distacco dei genitori che non partecipano molto, mentre forse partecipavano alla scuola elementare, arrivati alla scuola superiore lasciano i figli a loro stessi. E allora questo gruppo di insegnanti si è chiesto come fare per affrontare un disagio che non è quantificabile, non basta interrogare. E non serve niente dare un voto positivo o negativo, il disagio sta altrove. La non partecipazione vuole una risposta. E così bisogna dirlo chiaro. Il dirigente, il professor Petrucco, dell'epoca, accoglie questo progetto e si forma una equipe integrata da docenti interni di varia provenienza e disciplina e alcuni esperti esterni. Un consulente, quello è quello che io ho fatto, una psichiatra della ASL e poi una rete attorno di altre entità che hanno collaborato. Ecco, entriamo nel concreto, appunto, professoressa Bertolini. Questo progetto voi l'avete accolto, anche pensato proprio all'interno dell'Ipsia Galilei. L'Ipsia, per chi non lo conoscesse, è l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato, sì, esatto, di Castelfranco Veneto. Partendo da pochi, immagino, da un gruppo più piccolo, a chi era rivolto nei primi anni? Inizialmente, in via sperimentale, si è rivolto alle classi prime e seconde, quindi del biennio, ai più piccoli. E poi si è via via, si è esteso prima alla classe terza e poi quest'anno anche a tutte le classi dell'istituto, quindi anche comprese le quarte e le quinte. Dalla prima alla quinta e per, sì, tutte, le, sì, le e per tutte le sezioni. Quindi per un totale di quanti alunni? Sono circa 600. Insomma, no, non è poco. Non anche poco, anche come organizzazione, quindi come, sì, come programma anche a livello informatico. Ah, ecco perché c'è anche un aspetto informatico che toccheremo dopo. La patente, diceva prima il professor Mulato, è appunto anche, è anche un documento. Certo, un documento, infatti si concretizza in una scheda di valutazione. Uh-huh. Una scheda di valutazione dove appunto i docenti valutano degli aspetti del comportamento degli allievi, che sono il soprattutto il rispetto per la persona, la puntualità, l'attenzione al dialogo educativo, e che poi diventa l'attenzione in classe, il fare i compiti, il partecipare ai progetti di istituto, l'attenzione ai compagni, tutor, l'attenzione ai compagni, se c'è qualche... prego. E anche c'è un elemento che poi scatena positivamente o negativamente gli allievi, cioè il fatto che partecipino al miglioramento nel gruppo e con il gruppo, si fanno degli approfondimenti. Partecipare o non partecipare non è la stessa cosa, certo, questo è banale, lo capiscono tutti, ma partecipare all'approfondimento vuol dire migliorare tutti quegli elementi che hai appena detto. E alla fine si vede il salto di ciascuno e il salto del gruppo intero, quindi l'individuo e il gruppo, collettività. Il gruppo vuol dire sia la classe ma anche i sottogruppi che compongono ogni classe. Quindi l'insegnante segue il decorso di un miglioramento dal punto di vista del rispetto delle persone, per esempio il linguaggio deve essere adeguato al rispetto, e viviamo in un mondo che usa usa un linguaggio violento, poco rispettoso, di personaggi notissimi, e questo introduce dentro il mondo degli adolescenti una mimesi, una imitazione. Se lo fa l'adulto, perché non devo farlo io? E allora l'attenzione a questo permette di correggere. Permette di correggersi reciprocamente. Sì, infatti è proprio questo importante, che ci sia una unità di tutte le forze educative. Ecco perché l'importanza di coinvolgere i genitori, di coinvolgere anche persone esterne, la psicologa, perché da solo l'insegnante non ce la fa a risolvere questo tipo di problemi, perché si trova davanti a una società appunto che ormai è fatta che tira da un'altra parte. Quindi è da solo l'insegnante, quindi c'è proprio bisogno di lavorare in gruppo, di essere anche molto coesi come consiglio di classe, come collegio docenti. È una cosa importantissima. C'è un grosso lavoro da fare. Sì, e allora tra poco, dopo questa prima pausa, entriamo ancora più dentro questo progetto, questa patente etica. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Gira per il mare, ho voglia di sentire sulle labbra il sapore del sale, fa l'amore. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Di nuovo insieme con questa puntata dal mondo della scuola, stiamo parlando della patente etica, un progetto attivato da alcuni anni all'Ipsa Galilei di Castelfranco Veneto. Ne stiamo parlando col professor Renzo Mulato, che di questo progetto è stato consulente, e con chi poi l'ha concretizzato tra le tante persone, la professoressa Vittoria Bertolini. Dicevamo poco fa il ruolo anche dei genitori, perché chiaramente nella scuola, insomma, noi lo sappiamo, chi ci segue nel sistema scuola, ci sono gli alunni, ci sono gli insegnanti, ci sono i genitori, anche se poi soprattutto nell'età dell'adolescenza tendono un po' a farsi in disparte, no? Farsi in disparte, ma invece sono chiamati qui a essere i protagonisti insieme agli allievi, perché poi la scheda viene consegnata agli allievi in tre periodi durante l'anno insieme alla pagella. E viene discussa proprio la presenza dei genitori e del ragazzo, in maniera tale che insieme si può vedere dove è possibile avere dei miglioramenti, quali sono i punti di forza dello studente, quali sono i punti di debolezza e dove deve lavorare. La valutazione la fate in consiglio di classe? No, la valutazione viene fatta personalmente da ogni docente e viene inserita questa valutazione su un programma che abbiamo nella scuola, da un computer della scuola. In più poi i ragazzi hanno una scheda che compilano sempre in questi tre periodi, in cui hanno la possibilità di avere un punteggio integrativo a seconda delle cose che loro fanno in positive, cioè la partecipazione per esempio anche fuori della scuola. Se per esempio suonano in una band con una certa regolarità, allora hanno diritto ad un punteggio aggiuntivo, oppure se fanno del volontariato o se fanno uno sport con regolarità. Se partecipano a un progetto della scuola in maniera positiva, lo stesso, hanno un punteggio. Superano una carenza, per esempio alla fine del primo quadrimestre, se qualcuno deve superare, no? Perché ha l'insufficienza, ecco, deve recuperare un'insufficienza, il fatto che recuperi queste insufficienze vuol dire che ha fatto uno sforzo, che ha cercato di migliorare anche con l'aiuto dei compagni, perché poi si creano anche la possibilità di studenti tutor, no? Che aiutino nel migliorare la valutazione nelle varie discipline, quindi i compagni più bravi aiutano quelli in difficoltà, e quindi c'è questa possibilità di integrare con un punteggio integrativo. Ecco, quindi vengono valorizzate, diciamo, anche le caratteristiche dei ragazzi fuori della scuola. Professor Mulato voleva aggiungere? Immaginiamo l'incontro tra il docente e coordinatore della classe, l'allievo e il genitore. E prendiamo il punto di vista del genitore, che si sente dire suo figlio, in questo caso perché sono maschi per lo più, o sua figlia. Sì, abbiamo anche qualche ragazza dall'anno scorso. Benissimo, sì. Bel progresso rispetto a qualche anno fa. Sì. Bene, era ora, sì, perché gli studi tecnici, gli Ipsia, sono tendenzialmente maschili. Sì. E invece hanno bisogno di una parte e l'altra. Come dall'altra parte, certo. Le magistrali, o come si chiamano adesso. Ecco. Sì. Il genitore, dicevo, ha davanti questa voce, rispetto delle persone, quindi scopre se il figlio ha rispetto o maggiore o minore, se è cresciuto nel rispetto, scopre la puntualità. Io ho assistito a uno di questi incontri come consulente e il genitore impallidisce e dice: come, non sei puntuale? Ma se parti sempre in orario, scopre un lato del figlio che non conosceva, e allora lì discutono e viene fuori che in quel caso c'era un problema reale che dovrà essere risolto. Queste cose solitamente non... nessuno le sa. E non si valutano. Se nessuno sa, nessuno le valuta, nessuno gli dà il peso giusto. Come per esempio il rispetto per le cose o la partecipazione al dialogo educativo, lo stare insieme. Sembrano impalpabili, invece sono realissime. Sì. Molto molto reali. Sono cose che poi influiscono sulla vita, sugli molto. Atteggiamenti, sull'umore, sul rendimento scolastico, no? Alla fine. Naturalmente. Questo progetto è attivo dal 2005, sì, giusto? Sì, dal 2005, inizialmente per le prime e seconde, poi appunto un po' alla volta è stato esteso a tutte le classi. Avete notato, spero di sì, insomma, un'evoluzione positiva nel sì, corso degli allora, anni, anche per voi nel rimodulare il progetto? Sì, senz'altro c'è stata un'evoluzione positiva perché i ragazzi sono coinvolti, anzi ci tengono anche quasi più della pagella, sono molto quando aspettano questi esiti e si crea quasi una competizione, no? Perché poi vengono fatte anche delle classifiche sia nelle classi che anche tra le classi a livello di istituto, e questa è una competizione positiva perché veramente la classe anche si unisce intorno a un valore, no? al fatto di voler migliorare e quindi di partecipare di più, quindi si cerca proprio di dare una valutazione positiva, no? di valutare gli aspetti positivi dei ragazzi. Ecco, adesso mi sono persa. Ma è chiaro il concetto. Le chiedo se magari dialogando con colleghi di altri istituti dove magari non c'è questo progetto, avete magari fatto un confronto su questo aspetto? No, volevo dire questo, che l'anno scorso per problemi anche di direzione è stato sospeso. E devo dire che quest'anno se ne è vista l'esito negativo, perché diciamo le classi si evidenzia un'indisciplina insomma più diffusa, non c'è meno rispetto, ecco. C'è meno rispetto per le persone, c'è meno pulizia anche guardandosi intorno, c'è poco è peggiorata insomma è peggiorata la qualità. Allora, su questo ci interrompiamo, il professor Mulato ha già preso alzato il mano per un intervento che facciamo però subito dopo quest'ultima pausa. Dal mondo della scuola. Outside Chicago, can't stop driving, I don't know why. So many questions I need an answer. 2 years later, you're still on my mind. Whatever happened to Amelia Earhart, who holds stars up in the sky? It's true love just once in a lifetime. Ticket to the end of the rainbow. I'll watch the stars crash in the sea. If I could ask God just one question. Why aren't you here with me tonight? Someday we'll know if love can move a mountain. Someday we'll know why the sky is blue. Someday we'll know why I wasn't meant for you. Yeah, yeah, yeah, yeah. Someday we'll know why Samson loved Delilah. One day I'll go dancing on the moon. Someday you'll know that I was the one for you. Ultima parte di questa puntata dal mondo della scuola, stiamo parlando della patente etica, progetto attivo da alcuni anni, dal 2005, pur con un'interruzione l'anno scorso all'Ipsia Galilei di Castelfranco Veneto. Diceva prima la professoressa Bertolini che l'interruzione di un anno si è vista perché è calata un po' la qualità generale dei comportamenti, insomma della vita scolastica delle persone. Professor Mulato, che è stato consulente di questo progetto, voleva aggiungere una cosa. Semplicemente, se non si educa al rispetto, poi il rispetto non c'è, né delle cose né delle persone, e quindi l'interruzione ha voluto e vuole dire questo: una ripresa porterà delle modifiche. E a proposito, mi consentirete di dire qualche cosa a proposito di un aspetto specifico che è quello del bullismo, cioè di comportamenti, certo, di mancanza di rispetto assoluto. Io non sono restio e non vorrei utilizzare questo termine perché è fuorviante. Lo so che qualcuno si chiederà come mai il bullismo esiste. Per bullo e per il bullismo si intende un fenomeno legato a una minoranza. Quell'allievo, quel giovane, quel vecchio bullo che è un adulto che si comporta in una maniera scorretta. Qui non si tratta di minoranza. Qui nelle nostre scuole, a prescindere dall'Ipsia, in generale e fuori delle scuole, c'è un tasso di aggressività che è grandissimo, enorme, pervasivo, di cui è responsabile il mondo adulto che usa i linguaggi di cui abbiamo parlato. Quindi bisogna parlare più correttamente di grande aggressività del mondo adulto riflessa sui nostri adolescenti, che sono i più recettivi. E quindi non consoliamoci con la supposizione che esistano pochi bulli da controllare o da eliminare. Penso a quanto siamo aggressivi noi adulti quando siamo in macchina, no? In mezzo al traffico, quanto mi viene in penso a me stesso, innanzitutto lo faccio come autocritica. O su certe tribune televisive. Beh, lasciamo perdere, ecco, quello è proprio sulla piazza di tutti. Dei genitori abbiamo parlato, resto col professor Mulato per una precisazione, un ampliamento del concetto dell'equipe integrata, che abbiamo già citato in apertura, ma che è un valore aggiunto, insomma, perché certo il progetto opera all'interno della scuola, ma la scuola da sola non arriva, perché ha una serie di incombenze enormi, anche per un motivo molto concreto: non c'è moltissimo tempo che se ne dica al di fuori della scuola. Spezzo una lancia a favore di chi lavora davvero, non di chi non lavora. Volevo dire questo a proposito dell'equipe integrata. Si è pensato che gli insegnanti avessero bisogno, quel gruppo di insegnanti intanto, di un punto di vista diverso che aiutasse il gruppo a crescere, a discutere, a cancellare gli errori. E infatti io posso testimoniare da osservatore esterno interno che ci sono stati momenti molto difficili tra l'equipe integrata con gli esperti e il collegio dei docenti, che va convinto o convertito o indotto a modificare certe tendenze, soprattutto su una questione che è quella decisiva, che è quella della valutazione. Perché abituati come siamo a fare la valutazione in numeri e su una quantità di conoscenze, sai o non sai, nell'esercizio di laboratorio se è riuscito o non si è riuscito. È abbastanza semplice. Quando si tratti di valutare comportamenti, l'impegno è maggiore e non possiamo però utilizzare criteri vaghi. E quindi abbiamo anche stabilito in questa discussione con l'equipe integrata 2-3 principi che casomai poi ricordo fra poco. Ecco, volevo chiedere alla professoressa Bertolini nel frattempo, i ragazzi, gli alunni, insomma, chi ha magari iniziato dalla prima e poi è arrivato in quinta a completare un percorso, cosa vi ha detto, vi ha ringraziato, come hanno dimostrato proprio di aver recepito? Sono stati gli allievi a proporre di estendere il progetto a tutte le classi, quindi è stata un'idea loro, diciamo, e in più appunto si crea questa competizione che è una cosa positiva, e anche qualcuno diceva di estenderla anche alle altre scuole, di proporla insomma anche fuori del nostro istituto. E in effetti qualcuno poi è stata portata anche in qualche altra scuola, poi non sempre adottata, ma a Treviso ne abbiamo parlato, anche il CFP di Fonte era interessato, poi insomma comunque serve per discutere, per confrontarsi. Infatti questo progetto, diciamo, è stato molto utile per i docenti, perché proprio c'è stato un momento di confronto e anche di dialogo anche tra docenti di discipline diverse. E perché è un progetto di tipo trasversale, la sua valenza è proprio in questo, no? Nella trasversalità e l'importanza della patente etica c'è perché ci sono anche altri progetti, altre cose di tipo proprio sulle competenze. Adesso si parla tanto di competenze, ma poi valutare queste competenze della cittadinanza, per esempio, no? E quindi torniamo al discorso della legalità, ci vuole anche vogliono delle valutazioni concrete, quindi anche una scala di valutazione, tipo noi su questo abbiamo anche dato degli indicatori di livello con i vari pesi, per esempio il rispetto per le persone è più importante, quindi ha un peso maggiore del magari non fare i compiti. Certo. Quindi è stato studiato proprio un programma che poi riassume tutti questi valori, che queste valutazioni che danno gli insegnanti, e appunto da questo si viene fuori la scheda che viene data agli allievi. Il flash proprio sui criteri. I criteri di valutazione, che sono emersi come necessari anche in esperienze bellissime, magari ne parleremo un'altra volta, fatte fuori in stage, fuori dalla scuola, che ci siamo dati, sono questi qui, tre semplicissimi. La prima è: ciò che è stato annunciato va realizzato e portato a termine sempre e comunque. Perché? Perché gli studenti, i nostri allievi, sono dei giudici inesorabili e fanno quello che tu dici se lo fai. Il secondo è: ciò che vale per tutti deve valere anche per il singolo e non viceversa, tradotto, nessun individualismo. E il terzo è: bisogna sempre ricordare che quando si valuta si è valutati. Ecco. Purtroppo abbiamo finito il tempo, ma eventualmente ci torneremo un'altra volta. Insomma, un progetto, mi viene da dire per chiudere, che pensa all'educazione integrale della persona, quindi non solo al rendimento scolastico, ma alla valutazione e alla crescita complessiva della persona. Grazie ai nostri due ospiti, la professoressa Vittoria Bertolini dell'Ipsia Galilei, il professor Renzo Mulato, consulente di questo progetto, Eddie Daici in regia, Mirko Cavallini studio. A tutti grazie per l'ascolto, appuntamento fra 7 giorni. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.